Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Ma io sono Simone, ho avuto tre scelte: o il carcere, o la morte, o riniziare a vivere. E ho scelto riniziare a vivere. Dunque, io ho fatto due overdose nel giro di tre giorni, il 2 giugno e il 4 giugno di quest'anno. E diciamo che mia madre mi ha salvato la vita, perché mi ha trovato lì per terra, e se non fosse stato per lei, se non mi trovava quel giorno per terra disteso in una pozza di sangue, perché ho anche sbattuto il sopracciglio, me lo sono spaccato, sarei morto. E grazie a lei anche due giorni dopo nel letto. Io ho fatto uso di cocaina fumata. Ma quando è che hai iniziato a drogarti, cioè a usare sostanze? Dunque, ho iniziato da piccolino, sono stato l'ultimo della compagnia a iniziare con le canne. Poi dalle canne sono passato alle pastiglie, alla chetamina, agli allucinogeni, no? In discoteca, andando a ballare. Allora, mi chiamo Francesco, sono arrivato gradualmente, perché per un problema a livello di tossicodipendenza. Sono stato a Rogoreto, ho fatto un periodo devastante, e Rogoreto per me è un cimitero vivente, cioè è una cosa proprio, una realtà bruttissima, violenta, dove le persone ci lasciano l'anima. Sono stanco molto, perché la droga in tutti i sensi mi ha distrutto, ecco. Qual è la parte più difficile, diciamo, dell'uscire da una dipendenza d'eroina? Era la tua? No, io ho iniziato con l'eroina da piccolino, avevo 17 anni, e la mia principale problematica è la cocaina. Il mio sogno è avere una vita normale, sana. Le storie di Simone e Francesco sono tra le tante di cui si occupano qui in Fondazione Eris, a pochi passi dal bosco di Rogoredo, l'area che è stata definita tra le più grandi piazze di spaccio del nord Italia. Di questo parliamo oggi, di tossicodipendenze e di come fare ad uscirne. Siamo andati nella Fondazione Eris a vedere come si lavora, ma anche a capire quali sono i numeri e i volti della dipendenza. Sono Simone Mosconi, sono case manager dell'accoglienza dei ragazzi quando arrivano qua al servizio, cioè mi occupo della presa in carico, del ricovero, del monitoraggio durante il ricovero, del monitoraggio sullo stato di benessere. E poi mi occupo della ricerca delle strutture che, in base alle loro storie, a quello che emerge dalle informazioni, si ricerca una comunità ad hoc. Quindi Simone, qui dove siamo? Raccontaci, perché essendo una radio noi possiamo solo descrivere a parole. Ok, allora questo si chiama accoglienza transitoria di sollievo. Accoglienza transitoria, lo dice la parola stessa, è un ricovero di 15 giorni prorogabile di altri 15. In questo periodo i ragazzi vengono indotti con la terapia sostitutiva laddove c'è un uso di oppiacei, o con altre terapie di supporto dove non c'è l'uso di oppiacei ma di cocaina o di altre sostanze. Comunque sono persone che gravitano nel parco di Rogoredo, che dormono in strada la maggior parte. Allora, quindi le persone che arrivano qui arrivano in una situazione d'emergenza? Sono tutte persone che vivono in strada, hanno un po' distrutto tutto nella loro vita, hanno perso affetti, o perché l'hanno persi, o perché le persone importanti si sono allontanate per la scelta di vita. Arrivano veramente in una situazione disperata, arrivano sporchi, arrivano consumati dalle sostanze, arrivano disidratati, arrivano sottopeso. Perciò questo è proprio il primo step della cura. Il ricovero qui in accoglienza transitoria è il primo step per poi proseguire. Che poi finisce in una comunità, diciamo, continua e finisce in una comunità. Sì, continua in una comunità, sono comunità che poi aiutano a lavorare sul perché si sceglie quel tipo di vita. Si sa che quando si sceglie quel tipo di vita si ha una sofferenza da colmare, di quale natura lo si sa facendo dei colloqui di approfondimento sulle persone. Vengono viste dallo psicologo, dallo psichiatra, vengono viste tutti i giorni dal medico. Pietro Farnetti è il fondatore di questa associazione, ci racconta di ragazzi arrivati in condizioni al limite delle possibilità di recupero. Abbiamo in cura mediamente 900 persone al mese, di tutte le età e di tutte le dipendenze. Siamo circa 100 tra medici, psicologi, infermieri, educatori, assistenti sociali, soprattutto proponendo una disintossicazione che facciamo qua in Via Ventura, protetta, dicendo che ti diamo da dormire, da mangiare, le sigarette, da vestire, tutto quanto, oltre, diciamo, all'intervento medico e di disintossicazione, per tirarli via da questa condizione drammatica di dipendenza. Beh, noi la conoscenza di Rogoredo ce l'avevamo da anni, tanto è vero che forse 3 anni fa facevamo la prima conferenza con Don Mazzi, con Don Chino e Simone Feder al boschetto di Rogoredo, per richiamare l'attenzione. Il ritorno, diciamo, dell'eroina, però di un comportamento collettivo di uso di sostanze, secondo noi è drammatico, molto diverso dagli anni miei, di quando io ero ragazzo. Uno, perché il costo è bassissimo; due, perché c'è una diffusione nelle scuole di utilizzo di cannabis che non c'era, di sdoganamento al fatto che per divertirsi devi assumere qualche cosa. Io ho 4 figli, quindi sono un po' preoccupato, sono di questa cultura diffusa dello sballo, che poi degenera in poi in dipendenza e quindi poi in comportamenti illegali e quindi poi nella vita di strada, nel degrado più assoluto e nella malattia pesante come la dipendenza, insomma. Tu vedi molte persone giovani quindi passare da voi. Qual è l'età media delle persone che arrivano da voi? Allora, l'età media devi considerare che dal primo utilizzo una persona mediamente si rivolge a un luogo di cura dopo 7-8 anni. Venerdì abbiamo aperto una cartella di una ragazzina del 2007. La questione è che come società, come famiglie, come istituzioni non ci stiamo rendendo conto della pericolosità di quello che stiamo vivendo. E sono tutti ragazzini. È proprio una cultura che c'è in questo momento che va contrastata. Ma in che modo si può contrastare, secondo te? Beh, bisogna parlarne tantissimo. Ma sul fatto che questa è una malattia, e quindi cioè, l'utilizzo di queste sostanze ti può generare una malattia grave, che ci vogliono degli anni da curare, che però è cronica e ti resta tutta la vita, quindi resterai fragile da questo punto di vista. Adulti, famiglie in particolare, e i ragazzi sul fatto che hai un problema, se la tua vita e le tue giornate sono scandite dall'organizzarti per assumere delle sostanze, o lo è la tua settimana e il tuo momento di divertimento. C'è qualcosa che non va, non è normale così. Diego Inghilleri, psichiatra e direttore sanitario, ci spiega che le persone che arrivano in fondazione portano con sé fragilità che hanno tentato di nascondere e affogare nell'eroina. Ognuno porta fragilità proprie, possono essere difficoltà iniziali, quando parliamo dei più giovani, iniziali relazionali, il confronto con il gruppo, il confronto con gli altri, le famiglie, quindi il confronto con i genitori, la tipologia di rapporto che hanno con i genitori, e andando avanti la ricerca di prestazioni, l'incapacità a gratificarsi, il desiderio di una gratificazione tutto e subito, sono tante, possono essere copresenti all'interno delle stesse persone o possono essere specifiche di ogni singola persona. E poi ci sono degli aspetti invece più prettamente psicologici, psicopatologici, che portano le persone a un utilizzo quasi automedicativo, e quindi la fragilità in questo caso sarebbe una sorta di malessere di base che porta la persona non tanto a rivolgersi direttamente alla ricerca di un aiuto, a un medico, a uno psicologo, a un educatore, ma direttamente alla sostanza, perché purtroppo è così diffusa, è così capillarmente diffusa, che è a portata di mano in qualsiasi forma e per qualsiasi persona. Ma anche l'eroina è così diffusa, è così a portata di mano? Tutto, tutto. Quando io ho iniziato a lavorare qui per la fondazione con Pietro Farneti, quindi parliamo intorno al 2012, ero convinto che per quanto io nell'attività psichiatrica vedessi arrivare sempre più persone con problematiche di dipendenza, ci fossero degli schemi abbastanza precisi, cioè utilizzi le famigerate droghe leggere successivamente. Ecco, falsa credenza, non è così. È così diffusa che ci sono ragazzini che iniziano direttamente con cocaina senza passare da nessun altro tipo di sostanza. Questo dipende dal gruppo che frequentano, dalla disponibilità, da che cosa gli viene offerto inizialmente. La paura è anche per quello che potrà accadere nel futuro più prossimo, ci spiega Pietro Farneti. Noi con la crisi economica del 2008 abbiamo registrato un aumento di richiesta d'aiuto e di persone che a 30 anni, senza aver utilizzato prima, hanno cominciato a utilizzare sostanze e sono diventate tossicodipendenti, per non parlare di chi invece usava l'alcol, cioè beveva l'alcol in modo sociale, che è diventato alcolista. Noi siamo molto preoccupati della crisi post-lockdown Covid. Siamo preoccupatissimi perché è molto più grave di quella del 2008 e quindi ci attendiamo un aumento e un ricorso all'uso delle sostanze notevole, ma anche un ricorso per sostentamento economico, perché poco ci pensiamo a questo, Cioè un mercato così diffuso ha bisogno comunque di venditori. La questione delle droghe è anche legata alla questione economica, è un profitto. Abbiamo storie di ragazzi universitari, il padre aveva perso il lavoro, anche la madre, che spacciava in università per portare a casa i soldi. Allora, noi non abbiamo registrato durante il lockdown nessuna calo dell'utilizzo. Abbiamo registrato un cambio a Rogoredo, cioè invece di avere gli esodi di persone, una sera ho registrato 40 rider, Volvo, Uber, di tutti, che entravano e uscivano da Rogoredo, cioè è stato organizzato il consegno a domicilio. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. No. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Il bosco di Rogoredo è di fatto diventato il simbolo della tossicodipendenza, ci spiega Simone, uno degli educatori di Fondazione Eris che si occupa del recupero di molte di queste persone. La maggior parte delle persone hanno un richiamo forte del bosco, perché nel bosco ci sono amori, ci sono amicizie, quello che spaventa in una vita normale di non poter avere. La certezza che nel bosco c'è quello che può servire a una persona, ma è irreale, perché poi è una cricca di persone che ognuno si scambia il suo male nell'ambiente delle sostanze, fino a che poi muoiono. L'età si sta abbassando, mi dicevano, no? Sono tanti ragazzi molto giovani che prendete. Allora, ci sono dalla minore età fino anche ai 50 anni, su tutte le fasce. È vero che c'è una grande fetta adesso che sono proprio giovani, si bruciano l'adolescenza. E nonostante se ne sia parlato molto, no, di questo boschetto, così continuano ad esserci persone lì dentro, cioè non è pulito, non è finita. Allora, succede questo, che da quando poi sono stati, come si è visto già sui giornali, si è sentito dai telegiornali, arresti di quelli che poi tenevano in mano tutto il mercato, si sono riorganizzati con orari differenti, piuttosto che la sera da quando fa buio fino a tutta la notte adesso che è estate, piuttosto che arrivano a consegnare la sostanza su commissione, piuttosto che si sono allontanati un po' verso le Groane, perciò Garbagnate, Bollate Nord, Ceriano Laghetto, che adesso anche lì hanno fatto poi un grande intervento le forze dell'ordine, sembra che ce ne sia, non ci sia più o ce ne sia di meno, perché poi agli occhi magari non si vedono, però per il flusso di gente che arriva e per le richieste che stanno arrivando, stanno aumentando. C'è stato un periodo che sembrava che si era un po' calmato, no? Non fermato, ma calmato rispetto a quando abbiamo aperto. Quando abbiamo aperto ricoveravamo 6 persone, riempivamo l'accoglienza transitoria e andavamo ogni 10 giorni a fare il ricambio con gli invi in comunità. C'è stato un periodo anche col lockdown che si è calmato, noi poi eravamo stati chiusi per via del lockdown. Adesso persone arrivano proprio dal parco, perciò sono ritornate ancora lì, gravitano negli edifici abbandonati lì intorno, loro si svegliano la mattina, si fanno la dose che si lasciano prima di andare a dormire, iniziano la loro giornata facendo colletta, la prima colletta che raggiunge la cifra per acquistare la sostanza entrano al parco, piuttosto vanno dove sanno che c'è di mattina lo spacciatore, usano, ritornano a scollettare, dopodiché ritornano dallo spacciatore, e questa è tutta la loro vita. Questa è così, tutta la giornata ha questa funzione qua. Faccio colletta per i soldi per la droga. Non pensano a mangiare, non pensano a bere, si lavano sotto le fontanelle in maniera un po' così. Non usufruiscono dei servizi che ci sono sul territorio, che sono mense, piuttosto che centri di dove si fanno le docce, non ne usufruiscono, sembra che sono bloccati nell'area che circonda il parco. I soldi come li recuperano? Facendo colletta, rubando nei supermercati, un sacco di ragazze usano il sesso per potersi fare la dose. Poi fondamentalmente i racconti che senti anche da ragazze e da ragazzi che in questo momento si stanno curando, stanno bene, si sono allontanati già dal bosco da un anno, i racconti che fanno è che si hanno visto scene veramente forti anche di ragazzine che per avere la dose si prestavano ad avere atti sessuali con poi da uno diventavano 5, 6, 7 e raccontano proprio di urla piuttosto pianti, insomma è una realtà proprio forte là dentro. Un mondo che anche per paradosso il ghetto creato per non vedere, perché ultimamente si è preferito parlare poco, quasi ignorare il problema della tossicodipendenza, e invece la guardia va tenuta ben alta, ci spiegano qui in questo centro che si occupa di recupero, Diego Inghilleri, psichiatra e direttore sanitario. È una malattia, quindi dobbiamo fare tutta una serie di indagini, di avere delle certezze prima di intervenire. È psicologica da un punto di vista non solo del trattamento ma prima di inquadramento, è educativa, tiene conto delle problematiche che ci possono essere all'interno della vita sociale della persona, quindi con un'assistenza sociale, è veramente, quindi significa che tutte queste figure la persona deve vederle soprattutto all'inizio per avere un buon inquadramento, per poter definire un programma, e successivamente possono essere presenti in forme varie, la psicoterapia individuale piuttosto che l'approccio di gruppo, sicuramente l'intervento e l'integrazione della famiglia all'interno del percorso, perché non ci si cura mai da soli, lo diciamo sempre, da soli è impossibile. Una persona che viene qui e lavora qui e decide che cambierà per riuscire ad adeguarsi ad una vita diversa e a costruirsi una vita diversa, nell'attimo in cui lo fa e riesce a farlo, ha un rischio enorme, visto che mi chiedeva prima dei rischi, di uscire e di ritrovare tutto esattamente come prima. Se tutto è esattamente come prima, uno può essere, da un punto di vista psicodinamico, Sansone, ma la spinta dell'ambiente, la spinta degli affetti esterni è fortissima. Quindi poter integrare chi gli sta intorno, le figure fondamentali, diventa veramente essenziale. E questo è un altro aspetto impegnativo, cioè riuscire a coinvolgere degli altri che fino a quel momento spesso invece sono quelli che si sentono impotenti, non ce la fanno più, ti aiutano ma non ti aiutano, oppure ti aiutano troppo. Ecco, questo è l'essere impegnati. Sì, ti dico anche che aiutano troppo, perché poi esistono, ognuno credo che sia esperienza comune, di fronte a determinate difficoltà all'interno della famiglia poi si mette in atto una sorta di fai da te, che cerca di, nell'idea è curare, di aiutare, dall'altra invece è quella di tamponare semplicemente delle situazioni rischiando di cronicizzarle. A livello sociale le persone con dipendenza, no, i tossici, hanno sempre questo marchio negativo. Cioè, voi, lei come fa a lavorare perché l'identità della persona, come dire, si rafforzi e possa rientrare in un contesto sociale, portando dietro anche questo bagaglio, ma riuscendo a dimostrare di essere anche altro? Cercando di spiegare loro e poi cercando di fare in modo che diventi un'informazione acquisita, che è una malattia, già questo dovrebbe in parte aiutarli a ridurre quel sentimento di inadeguatezza e di vergogna. È fondamentale togliere dalla testa delle persone che vengono qui e da tutti quelli che verranno coinvolti nel percorso che non si tratta di un vizio, che non si tratta, cioè, se no non sarebbe, non, niente sarebbe vero di quello che dicevamo prima. Questa è la cosa fondamentale. Qui non si giudica, ma qui, come in molti, nei nostri servizi, voglio dire, i servizi che lavorano sulla tossicodipendenza, non puoi metterci il giudizio. E in effetti è quello che permette alle persone, magari con tutte le reticenze iniziali, una volta che vengono, nella gran parte dei casi si fermano, perché è un elemento fondamentale, non c'è nessuno che gli punta contro un dito, è un tentativo di coinvolgerli all'interno di un programma di lavoro e di cura che riguarda loro, in modo che si sentano comunque anche protagonisti di quello che stanno facendo, non vengono trascinati a forza. E questa cosa funziona anche nella comunità, tutti partecipano alla propria cura, diventano veramente attori fondamentali, non soltanto oggetto di qualche cosa che viene riversato su di loro. Io credo che man mano che è passato il tempo, quello che si è ridotto è la capacità di autogratificazione. Io all'inizio metterei questo. Con una disponibilità enorme di oggetti, condizioni che ti possono soddisfare tutte subito, immediatamente, pronti, via, credo che la ricerca di una gratificazione un pochino più costruita sia venuta a mancare. Uno. Due, siamo in un'epoca dove bisogna assolutamente essere belli, primi, far parte di un gruppo, essere più o meno omogenizzati agli altri, avere delle prestazioni elevate. Storie orrende, quelle che abbiamo sentito, che si mescolano a storie intense e che finiscono bene, come quella di Simone, che mi chiede di poter parlare direttamente ai ragazzi in ascolto. Non fatelo, non fatelo, non fatelo. È una cosa brutta. La canna, guarda, tutti i ragazzini iniziano dalle canne. Quasi tutti i ragazzini iniziano dalle canne e dall'alcol, però sono comunque entrambe sostanze che, sì, non sono leggere confronto alle altre, ma comunque sia hanno lo stesso peso, cioè vuol dire scappare, non affrontare i problemi, e i problemi vanno affrontati, anche perché dopo, quando si decide di cambiare vita, si decide di ripulirsi, te li trovi tutti davanti, sono tutti problemi appunto accantonati col passare degli anni e te li ritrovi tutti davanti, ed è difficile, difficile poi uscirne anche da questa, tra virgolette, seconda vita. È tutto, potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli e grazie per essere stati con noi. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.